Ah, Kem, Ebo Wala Otim. Otimi personne, Ebo Wala Odia Stella. Nde etenaman mese, Mendo Kaye Labi, Sobela Didia Longe, Ngeyango Seneli, Lubala Musikidi Kaye, Owa. Bamende pa nse ma diwongo la bu kalanda bambu.